domenica 29 aprile 2018 alle ore 18. Spettacolo a sostegno di Radio Onda Rossa. Viaggio al termine della notte. Liberamente tratto dall'omonimo romanzo di Louis Ferdinand Céline. Elio Germano alla voce. Teo Teardo chitarra, live electronics. Laura Bisceglia violoncello. Ambra Chiara Michelangeli alla viola. Elena De Stabile al violino. Domenica 29 aprile 2018 alle ore 18. Spettacolo a sostegno di Radio Onda Rossa. Nuovo Cinema Palazzo, Piazza dei Sanniti a San Lorenzo.